Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Dunque, ripartiamo, come diceva un attimo fa Simone Spezia, da quanto è in corso a Bruxelles. Il tema, lo sapete, è quello dell'immigrazione, dunque la gestione del flusso di profughi nel sud del Mediterraneo, la condivisione anche del fardello economico, psicologico, sociale di questo flusso, ma naturalmente anche alcuni aspetti molto tecnici. Insomma, Laura Bettini ci aiuta a fare il punto su questa situazione. Buongiorno, sì, i ministri degli esteri e della difesa dei 28 sono riuniti per due sessioni del Consiglio europeo, prima separate, poi in questi minuti in versione cosiddetta jumbo, cioè congiunta, per discutere della strategia europea sull'immigrazione in generale e all'interno di questa in particolare sul piano di intervento navale militare contro i trafficanti di uomini che salpano dalle coste della Libia. È il CMC, Crisis Management Concept, elaborato dall'alto commissario Mogherini, un piano che prevede un profondo lavoro di intelligence per individuare i trafficanti, incursioni mirate per l'eliminazione già a terra dei barconi o il loro sequestro e confisca se si trovano già in alto mare. Sentiamo in proposito all'arrivo prima dell'incontro il ministro degli esteri italiano Gentiloni. È un pezzo della strategia generale, ma credo sia importante in questa riunione esteri difesa varare la missione. E per quanto riguarda il resto dell'agenda migrazioni, io veramente mi auguro che non si facciano dei passi indietro rispetto alle proposte della Commissione e alla loro condivisione. Questo dell'intervento navale è un piano sul quale, a differenza di quello sulle quote per la ripartizione dei migranti, di cui abbiamo parlato moltissimo negli ultimi giorni, dicevo, un tema che ha una certa compattezza, su cui c'è una certa compattezza tra i membri dell'Unione Europea. Sentiamo ad esempio il ministro britannico Hammond. Quello di cui abbiamo bisogno oggi è di fare un piano completo, dice, che spinga le autorità libiche a collaborare e l'ONU a sostenerlo con una risoluzione. Ci sono molti passi ancora da fare, ma il primo e più importante sarà quello di oggi. Oltre all'Italia, hanno dato disponibilità a fornire navi per questo specifico progetto anche Francia, Germania e Spagna e la Gran Bretagna, che abbiamo sentito pochi istanti fa. Se il piano supererà l'esame di oggi, passerà all'approvazione definitiva nel vertice dei capi di Stato e di Governo di fine giugno e nel frattempo, come ha sottolineato oggi anche Federica Mogherini, si lavorerà a una risoluzione ONU che lo autorizzi da un punto di vista appunto internazionale. Grazie Laura Bettini. Intanto, e in realtà non andiamo poi così lontano da questo tema, parliamo di droni. Vi ricordate il progetto Eurofighter, l'ultimo grande lavoro collettivo in Europa per dotarsi di un cacciabombardiere appunto europeo? Bene, questa mattina i ministri della difesa di Italia, Francia e Germania hanno invece sottoscritto un'intesa per lo sviluppo congiunto di un drone europeo entro il 2025. Il servizio. Italia, Francia e Germania firmeranno un memorandum d'intesa per la progettazione di un sistema denominato MALE 2020, MALE 2020, che fra 5 anni dovrebbe fare volare un drone di ultima generazione. Budget iniziale 60 milioni di euro e progettazione affidata ad Alenia Aermacchi del gruppo Finmeccanica, Airbus Defence and Space e Dassault Aviation. La firma è un segnale per l'industria aerospaziale europea, ma anche un rilancio delle joint venture continentali nel settore militare, ferme dai tempi dell'Eurofighter, il caccia ideato negli anni 80 e costruito oggi in Italia, Gran Bretagna, Germania e Spagna. Ora l'Europa punta sui droni, gli aerei a pilotaggio remoto nei quali gli Stati Uniti hanno la supremazia tecnologica e operativa e che rappresentano il futuro dell'aviazione sia militare che passeggeri. Droni da non confondere con i piccoli velivoli simili a piccoli elicotteri a più rotori, già oggi utilizzati in vari campi. Qui si parla di caccia a bombardieri da alcune tonnellate e svariati milioni di euro. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed è tutto per l'Europa, appuntamento domani. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.